La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, mancano poche ore oramai al Natale, in questo pomeriggio di 24 dicembre, e non solo perché è Natale, ma perché è uno dei temi rilevanti della nostra vita nazionale e internazionale, è stata una delle grandi emergenze esplose in questo anno alle nostre spalle. Cioè, sto parlando del fenomeno dell'immigrazione. Questo 2015 si stima che oltre 1 milione di persone sia sbarcato o sia arrivato via terra in Europa per cercare rifugio, asilo, per scappando da guerre, da persecuzioni o anche per questioni economiche. Però insomma, un fenomeno che l'intera Europa, non solo più l'Italia come avveniva negli anni precedenti, o l'Italia e la Grecia, hanno dovuto fronteggiare con strategie di emergenza, che ha messo in ginocchio la unità politica europea, come sapete. E allora, in particolare, visto questo sfondo, vista la necessità di dover pensare in maniera non solo politica, ma innanzitutto anche umana, delle catene di soluzioni collegate, oggi ho scelto di parlare in particolare di un progetto che mi piace molto, perché voi sapete che abitualmente l'obiezione che viene fatta all'integrazione, alla politica dell'accoglienza, è quella di dire: ma no, diamo una mano a casa loro a questi signori, invece che pensare ai costi, all'integrazione qui dove non ce n'è per gli italiani, eccetera eccetera eccetera. Allora, questo progetto mi è piaciuto perché nell'ambito del volontariato, dell'impegno sociale, parte proprio dall'idea che bisogna dare una risposta non emergenziale, cioè bisogna dare una mano contemporaneamente nei paesi in cui il fenomeno si determina, per le ragioni per cui si determina. Bisogna poi farsi carico dell'emergenza, di chi viene, dove viene, quando viene e come viene, e poi bisogna occuparsi anche dell'integrazione, scegliendo, filtrando, ma insomma avere una catena di interventi. Naturalmente stiamo parlando del mondo della solidarietà, del terzo settore, le ONLUS italiane da questo punto di vista. Oggi descriviamo questo progetto, ma lasciatemi dire che lo Stato le maltratta, perché per quello che riguarda i regimi dei donativi fiscali noi abbiamo il 5 per 1000 che è diverso dall'8 per 1000, diverso dal 2 per 1000, e ai partiti nel 2 per 1000 si danno coefficienti di abbattimento fiscale molto maggiori che al 5 per 1000 a chi sta nel privato sociale. E la mia idea sarebbe quella che, ma è Natale, non posso esprimermi davvero troppo esplicitamente su come penso di uno Stato che continua a fare più vantaggio fiscale per i partiti piuttosto per chi, di chi si occupa di questioni come quelle di oggi. Allora, questa è la lunga premessa per arrivare a spiegarvi e a presentarvi il primo ospite dei due che avremo di questa campagna. È una campagna che nasce da un concetto: tutti sulla stessa strada. Allora, per parlarne è con noi il segretario generale dell'ABSI, che vi spiegheremo adesso che cos'è, Giampaolo Silvestri. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Giampaolo. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, innanzitutto, due parole: l'ABSI che cos'è nel mondo e in Italia? L'ABSI è un'organizzazione non governativa, termine che a noi non piace, perché non usiamo, perché è una definizione in negativo e uno non si definisce in negativo. Lo Stato purtroppo ci impone anche a queste contraddizioni logiche. Che fa progetti di cooperazione in 30 paesi nel mondo, con circa 100 progetti, attiva da circa 40 anni, soprattutto nell'Africa subsahariana, nel Medio Oriente, in America Latina. Progetti soprattutto che hanno come focus l'educazione, sia in senso stretto, cioè il percorso educativo dalla prima infanzia fino all'università, ma che anche in progetti di agricoltura piuttosto che di sanità, o anche progetti, diciamo così, di emergenza nelle crisi, ha sempre questa attenzione sull'educazione, cioè sulla persona, perché noi crediamo che lo sviluppo sia soprattutto una questione delle persone, cioè del capitale umano, se vogliamo usare un termine, diciamo così, più economico, cioè far crescere le persone, renderle responsabili e che lì dove sono, appunto aiutandoli a casa loro, possano dare un contributo positivo alla situazione spesso difficilissima che si trovano a vivere. Quindi su questo noi puntiamo. Io vedo che nella vostra scheda c'è uno staff che voi avete in Italia con 88 persone, 1270 nel mondo. Sì, In Italia appunto siamo i numeri che lei ha detto, nel mondo 1200, sono i nostri soprattutto collaboratori locali, cioè noi puntiamo molto sulle risorse locali, sulle persone locali, cioè gli ugandesi, i sudanesi, i libanesi, quelli del Myanmar, perché è attraverso di loro che si creano delle condizioni per lo sviluppo. Noi vogliamo essere dei facilitatori per lo sviluppo, tenendo conto che lo sviluppo poi è il risultato di processi a cui devono partecipare diversi soggetti, non è che sono solo le ONG che creano sviluppo, però le ONG possono facilitarlo. No, anche perché poi voi avete una rete di soggetti istituzionali con cui siete collegati nel mondo, una settantina di soggetti tra università, sì, eccetera, a vario titolo nei, sì, diversi paesi, che sono poi la vera rete attraverso la quale camminano i progetti. Certo, noi abbiamo una rete, diciamo, della società civile, come si dice oggi, anche se anche questo termine non è bellissimo perché implica forse che esiste una società in civile, però diciamo che attraverso la rete di queste organizzazioni che noi realizziamo i nostri progetti, e lo sviluppo di queste organizzazioni noi crediamo possa portare appunto allo sviluppo complessivo di un paese, di una realtà. Quanto riuscite a raccogliere? Noi l'anno scorso, ma mediamente gli ultimi anni, complessivamente raccogliamo circa 47 milioni, di cui un 40% sono fondi privati. Fondi privati vuol dire sia la microdonazione, che è appunto quella che viene in Italia, sia donazioni di imprese, campagne di raccolta fondi, e il resto sono contributi pubblici su progetti, cioè soprattutto Unione Europea, organismi internazionali, qualcosina ancora al Ministero Affari Esteri italiano, che... Anche se allora, ci tengo a dire che in ascolto che mi sono peritato di controllare il bilancio, è cioè, preciso fino all'ultimo euro, c'è Deloitte che fa la revisione, quindi stiamo parlando anche di una gestione contabile impeccabile, e del resto lei insomma viene fatto la Bocconi? Sì, io vengo dalla Bocconi, ho fatto economia, poi per una serie di circostanze ho iniziato a fare prima volontariato, poi servizio civile, diciamo, in questa organizzazione. Mi ha appassionato questa idea che appunto si potesse creare sviluppo utilizzando anche delle tecniche aziendali, cioè che l'efficienza e l'efficacia di una gestione non sono contro l'uomo, ma sono per l'uomo. Allora, io lo dico prima che parta il progetto, perché lo ripeterò alla fine, perché noi dobbiamo anche cercare di renderci utili. Quindi il conto corrente, per chi volesse, mancano poche ore a Natale, il conto corrente postale che è intestato alla Fondazione ABSI, A come Alessandra, V come Venezia, S come Sondrio, I come Italia, ABSI Onlus. Ecco, il conto corrente postale è 522474. 522474. Veniamo al progetto. Allora, la particolarità di questo progetto, appunto, è che sta nei luoghi, sta in mezzo, nel cammino per strada, e sta poi anche nell'integrazione. Sì, l'idea di questa campagna Profughi e noi tutti sulla stessa strada nasce da proprio da questa concezione di fondo, che il tema dei profughi non è un tema che si può affrontare in maniera emergenziale. Questa tematica è una tematica che ci riguarderà per i prossimi anni, nel senso che la gente che scappa o dal Medio Oriente per le guerre o dall'Africa per la povertà, la fame, la miseria, è un fenomeno che continuerà nei prossimi decenni e porterà anche a dei cambiamenti in Europa. Per affrontarlo non si può ragionare appunto in una logica di breve periodo, bisogna avere una visione di lungo periodo, e i progetti che noi abbiamo scelto sono progetti che provano ad accompagnare i profughi in tutto il loro percorso, in tutta la filiera, si direbbe, se usassimo il termine appunto schiettamente economico produttivo. Quindi con progetti per aiutarli, come si dice in maniera molto schietta, aiutarli a casa loro, che però è vero. Quindi in Sud Sudan, uno stato che è appena nato, l'ultimo stato nato nel mondo, ma che già è quasi uno stato fallito, è nato, sì, e poi è fallito, è praticamente, ma è nato in quanto secondo me, questa è la mia, sì, opinione. Comunque, oppure tra l'altro, ammirazione assoluta per chi lavora da quelle parti, perché significa esporsi a una condizione, certo, molto molto delicata, insomma. Poi in Siria o in Iraq, dove ci sono appunto la situazione di guerra, quindi nel Kurdistan e ad Aleppo, e poi nei paesi limitrofi, perché appunto lei citava prima che nel 2015 sono arrivati in Europa 1 milione di profughi. Non dimentichiamoci che in Libano ce ne sono circa 1 milione, ah, e certo, mezzo. In Giordania altrettanti. L'esplosione della Siria ha portato tutti i paesi confinanti, poi certo, ci sono anche quelli in Turchia, che la Turchia è quella che li utilizza, chiaro, politicamente in maniera più disinvolta, secondo me. Però insomma, diciamo che appunto il problema dei profughi, oggi nel mondo ci sono 60 milioni di profughi, come dicono le statistiche, ma la maggior parte di questi sono ospitati non nei paesi, diciamo così, tra virgolette ricchi, ma nei paesi comunque in via di sviluppo. E però il problema va affrontato anche qua, quindi abbiamo scelto dei progetti anche qua in Italia, in collaborazione con altre organizzazioni, che provano a dare un aiuto immediato quando arrivano, ma provano poi ad integrarli. E questa è un po' l'idea di fondo, che il problema va visto in tutti i suoi aspetti, non si può affrontare solo un aspetto. Questa è la concezione fondamentale. Mentre di solito chi ha dei dubbi sul fatto che dobbiamo tenere le porte aperte per un paese che continua ad avere 9 punti di PIL persi nella crisi, una riduzione degli investimenti di 27 punti, una discesa del reddito pro capite a 20 anni fa, ecco, la forte obiezione che viene è: in realtà il terzo settore, soprattutto quello che poi è collegato al mondo cristiano, religioso, eccetera, non capisce che con il loro darsi da fare in Italia dovrebbero farlo per gli italiani, no? Allora, io le chiedo questa obiezione perché devo farlo come giornalista. Lasciamo perdere che io sono convinto che in realtà dovremmo capire che i nostri conti demografici ci dovrebbero impedire di ragionare così. Ma al di là di questo, a chi fa questa obiezione, lei cosa risponde? Ma prima di tutto, il terzo settore in Italia fa anche tanto per gli italiani, questo non si può nascondere una parte della realtà, adesso noi non direttamente, ma però c'è anche chi fa tanto per gli italiani. Secondo... Scusi, concretamente, nella mia esperienza, per rispondere in questi anni di crisi a chi è senza tetto, senza lavoro, al di sotto di ogni soglia ISEE e non ha neanche la pensione minima, stiamo parlando di 1,5 milioni di italiani, la risposta è: ci ha pensato lo Stato? Due punti? No! Ci pensa la Caritas. È chiaro? Questa è la amara realtà che i politici dimenticano. Mi scusi, a proposito di riforma degli incentivi fiscali per chi vuole donare al terzo settore sociale. Chiusa parentesi. Sì, sui incentivi fiscali sarebbe un discorso molto lungo che mi appassiona molto. Ma la rifaremo molto in un'altra puntata. Piacerebbe molto. No, prima di tutto appunto il terzo settore religioso, la Caritas, ma anche altre organizzazioni fanno molto già per gli italiani. Secondo, dobbiamo anche essere siamo di fronte a un fenomeno di dimensioni storiche epocali. Questi flussi non li fermiamo, è inutile, non è che si può creare un muro, questi arrivano e arriveranno. Allora, o proviamo a affrontare il problema nella sua complessità, oppure il rischio è quello di soluzioni di emergenza, appunto l'anno scorso in Italia grande, adesso ne arrivano di meno e poi dopo il prossimo anno riarrivano, riapriamo i centri, li richiudiamo senza una prospettiva. Se lo affrontiamo nella sua complessità, io penso che la cosa ci costa anche meno, perché aiutare un profugo in quei paesi costa meno che aiutare un italiano. No, certo, quindi è più efficace complessivamente. Allora, adesso noi abbiamo un'ospite collegata dal Libano. Ci spiega un secondo, in Libano come funziona lì la vostra? Allora, in Libano la situazione è molto difficile. 3 milioni e mezzo di abitanti, 1 milione e mezzo di profughi, la maggior parte in case o in campi, che però i libanesi non chiamano campi perché memori dei problemi dei palestinesi. Noi lì quello che proviamo a fare è mandare a scuola i ragazzi, i bambini, perché persone che sono 4 anni fuori da casa, se non le mandi a scuola perdi una generazione, perché il problema che dobbiamo porci è: la Siria si sta svuotando, ma un domani che venisse la pace, chi ricostruisce quel paese se sono tutti scappati? Certo. È una perdita di capitale umano. No, giustissimo. Allora, qui c'è questo aspetto in particolare ed è collegata con noi Josiane Calife, che è il responsabile appunto del operativo delle attività dell'ABSI in Libano. Grazie di essere con noi in queste ultime ore della vigilia pre-natalizia, Josiane. Buon pomeriggio, ciao. Come mai parli italiano innanzitutto? Io ho studiato l'italiano in Libano. Ah, in Libano. E com'è che sei incontrato, in contatto, hai conosciuto la realtà dell'ABSI? Io ho iniziato a lavorare con ABSI 9 anni fa, quando c'era la guerra del 2006, e c'era questa NGO che è aperta vicino a casa mia, dove ho mandato il mio CV e ho iniziato a lavorare con loro. Beirut? Giunie, che è vicino Giunie. A Beirut, è sul Giunie, sì. Nord di Beirut. Questo progetto che è relativo a fronteggiare la marea di profughi che la situazione in Siria ha creato nel vostro paese, come si articola? è un progetto molto grande, dove ci sono diversi settori, dove lavoriamo soprattutto nell'educazione, perché noi pensiamo che l'educazione è il base di tutto il lavoro, soprattutto per non creare una generazione di analfabeti. E poi c'è un parte di un progetto dove facciamo lavorare anche padri, perché da 5 anni che questi padri non hanno lavorato. Allora, quindi figli e padri, ci fermiamo un secondo per la pausa dell'informazione stradale, torniamo tra 60 secondi. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, la spesa alimentare è consapevole, meno sprechi, più tradizione, di Laura Bettini. La versione di Oscar. Eccoci tornati qui in questa vigilia di Natale a occuparci di un programma in particolare, di un'organizzazione del terzo settore, l'ABSI, che mi piace perché appunto interviene sulla catena del problema dell'ondata enorme di profughi che interessa tutta l'Europa, non solo più l'Italia e la Grecia, però interviene con una catena di continuità, con iniziative nei paesi in cui il fenomeno si provoca e si origina, quelli della prima accoglienza, quelli dell'integrazione. Quindi è una risposta organica a chi dice no, occupiamocene solo a casa loro. Certo, infatti si comincia occupandosene a casa loro. E con noi il segretario generale dell'ABSI, Giampaolo Silvestri, ed è collegata con noi da Libano, José Ancalife, che stavamo ascoltando prima, la responsabile operativa dell'attività dell'ABSI in Libano, e che ci ha spiegato qui si tratta di far lavorare i padri fuggiti dalla Siria che da anni non lavorano e di non far perdere la scuola ai figli. Quanti soggetti riuscite a coinvolgere e a trattare con il vostro progetto, Josiane? Stiamo parlando di, dipende dal progetto, progetto di padre, stiamo parlando di un piccolo progetto che ha iniziato, che dobbiamo fare altro quanto abbiamo soldi, per 300 padri. Sì. Ma per bambini stiamo parlando di 20-25 mila bambini. Ci ricordi il fenomeno? Complessivamente il milione e oltre di persone che si è riversato dalla Siria in Libano, questo te lo chiedo come cittadina libanese, insomma, la realtà è che il Libano riesce poi a rispondere a che tipo di emergenza? Perché sul totale degli abitanti che sono nel vostro paese questa è una marea, quindi come si affronta nel giorno per giorno questa situazione creatasi in questi anni? Però il Libano all'inizio non ha potuto rispondere a questa crisi, sono le NGO che hanno iniziato a lavorare su questo tema, e ora che hanno iniziato come governo a accettare il fatto che ci sono bambini qui che devono essere integrati nelle scuole. Noi all'inizio il nostro progetto era di fare studiare queste bambine nelle tende, nelle case, nelle piccole centri che abbiamo aperto, che abbiamo ancora oggi. Ma oggi la scuola libanese pubblica ha aperto il loro porto per accettare un numero preciso di bambine, ma non tutti, che devono avere l'equivalente di un numero di bambini libanese. Vuol dire che sì, io devo accettare 50 bambini libanese, posso accettare 50 siriani. Se non ci sono libanesi non accettiamo siriani. Per questo noi stiamo lavorando sulla pre-scuola e dopo scuola, perché il livello di educazione è molto diverso fra Libano e Siria. Posso chiedere una cosa? Perché di solito qui nel nostro dibattito pubblico ipersemplificato si diceva la Merkel in realtà ha spalancato nel mese di agosto le porte ai siriani, perché il sistema complessivo di educazione siriano della Siria alla vita degli Assad era molto buono. È vero che era molto buono il sistema educativo della Siria prima dell'esplosione della guerra, oppure no? Sì, è vero, solo che la differenza è che in Libano studiamo altre lingue nella scuola, questa è la differenza fra in Siria no, l'arabo è molto buono, molto ben preparato, ma come seconda lingua non la studiano. Noi in Libano studiamo 2-3 lingue dall'inizio della vita del bambino. Quindi in questi ultimo anno e mezzo la vita per l'ONG è risultata un pochino meno complicata in Libano perché si occupa di questi problemi? Sì, lavoriamo su questi problemi ma anche su altri, cioè, perché non è solo l'educazione, lavoriamo anche su protezione, su health e malnutrizione. Solo che è vero che il governo libanese non aveva tutta la possibilità per prendere in mano la crisi, e l'abbiamo preso quasi noi. Ma dei giovani libanesi, penso giovani libanesi di famiglie un po' più agiate eccetera eccetera, vi danno una mano? Cioè c'è un'ondata di solidarietà anche nella società libanese al di là della politica verso quello che fanno le ONG su questo terreno? All'inizio no, in questo momento meglio, perché all'inizio hanno pensato solo della politica, perché fra Libano e la Siria c'erano qualche problemi politici. Certo. Quando hanno iniziato a vedere che una situazione umana non è più politica, come noi la trasferiamo a tutti i nostri colleghi, i nostri genitori, i nostri vicini di casa, dicendo questa è una situazione umana, non c'è, noi potevamo essere al loro posto, perché Libano è anche pericoloso, Non c'è dubbio. Posso chiederti tu a che comunità appartieni nel mondo multireligioso e anche multietnico libanese? Tu cosa sei? Sei una cristiana maronita? Sei una drusa? Sì, io sono una cristiana maronita. Una cristiana maronita. Allora, intanto grazie per quello che fai, Josiane, e grazie della tua testimonianza. E buon Natale, tra l'altro, oramai manca poco. E torno con Giampaolo Silvestri qui in studio per farci capire. Trattare un giovane lì per tentare di farlo andare a scuola, e le chiedo anche di ricordare in quali altri posti oltre che in Libano ci siete, dove c'è la prima frontiera per trattare il fenomeno. Diamo anche un'idea di quanto costa a chi magari è a casa in queste ore. Io poi ripeterò il numero del conto corrente, però per quantificare, per trattare ognuna di queste cose, più o meno quanto serve l'anno? Poco, ma diamo l'idea. Sì, dunque, allora noi mandare i ragazzi a scuola lo facciamo in Libano, lo stiamo facendo in Giordania, parlando della crisi siriana, e lo stiamo facendo, siccome la crisi siriana riguarda regionale, lo stiamo facendo anche in Kurdistan per gli sfollati iracheni. Ma dunque, noi abbiamo anche un programma di sostegno a distanza che abbiamo attivato in Libano anche per i bambini siriani. Diciamo che se uno dovesse dire una cifra, diciamo che con 312 euro all'anno noi riusciamo a garantire che questo bambino possa andare a scuola. Capite che pensateci, cari ascoltatori, 312 euro andiamo a scuola per un anno, che è sicuramente molto meno di quanto spende lo Stato italiano. Ma questo mi sembra abbastanza chiaro. No, ma io lo dico anche perché insomma pensiamoci, perché tanti regali, soldi che buttiamo. 312 euro un anno di scuola per un bambino che altrimenti non ce l'ha, perché le organizzazioni pubbliche lì non sono in grado di garantire, non so se è chiaro. No, rispetto a quello che diceva lei prima, è vero quello che dice la Merkel, che il sistema, i siriani che sono arrivati là hanno una preparazione di base buona, ma il problema è che in Libano e in Giordania i profughi sono gli ultimi della società siriana. Esatto. Cioè i contadini che sono scappati, cioè non sono quelli che appartenevano, cioè, alla borghesia commerciale, perché o delle professioni che avevano anche decine di migliaia di dollari e i parenti già inseriti in Germania. Quelli e così che sono arrivati in Siria e quelli che avevano i soldi, le risorse, i contatti per poter andare in Germania. Quelli che sono rimasti in Libano e in Siria non ce li avevano, e quindi sono quelli più poveri, quelli che non hanno studiato, gli agricoltori, quelli che vengono dalle campagne. In Germania sono arrivati quelli che sono scappati da Aleppo, da Damasco, da Homs, dai centri cittadini, gli avvocati, i medici. Sì, sì, esattamente. Cioè quelli che appunto erano laureati o plurilaureati, a quel punto in una tradizione di insegnamento che appunto faceva riferimento all'organizzazione laica ex sovietica degli studi. Sì. Questo poi è il punto vero. Però anche sono finiti questi. Sì, sì. Ecco. Ecco, i prossimi che arriveranno sono quelli che appartengono alla base della piramide sociale, non al vertice. Sicuramente, com'è. Perché in Libano noi abbiamo fatto anche delle inchieste nei campi dove lavoriamo, ormai questi non ne possono più di stare lì, e siccome il messaggio della Merkel è arrivato anche loro, sì, è chiaro che tenteranno di arrivare, come ovvio, quindi tanto vale cominciare di là. E invece qua in Italia cosa fate? Qua ci appoggiamo ad altre organizzazioni, perché noi siamo specializzati soprattutto sul lavoro all'estero, in particolare il progetto con la Caritas Ambrosiana di accoglienza e integrazione, cioè di in qualche modo favorire il fatto che quelli che sono qua, che qua sono soprattutto migranti economici, che in Italia ci sono, questo dobbiamo anche dirlo, possano in qualche modo attraverso delle borse lavoro imparare la lingua, fondamentale, se no non si potranno mai integrare, imparare un mestiere se non lo sanno e in prospettiva trovare un lavoro, che è l'unico vero modo di integrare poi le persone, altrimenti non si fa integrazione, si fa solo un aiuto di emergenza. È questo che proviamo a fare. E poi anche con Fondazione Arca alla stazione centrale l'aiuto di prima emergenza, ma però questo, i dati degli ultimi mesi dicono che il numero dei profughi in Italia nell'ultimo periodo sta diminuendo e soprattutto i siriani, da quando si è aperta la via dei Balcani in Italia, non ne arrivano. Allora, io devo dire la verità, io spero che lo spirito dei nostri ascoltatori in queste ultime ore prima di Natale abbia compreso il perché ho scelto oggi di invitare Giampaolo Silvestri, segretario generale di AFSI, per parlare di questo progetto che dai paesi in cui si determina il fenomeno dei profughi fino all'Italia e poi fino anche agli altri paesi europei, visto che noi siamo il transito, si preoccupa di venire a dare risposte a ciò a cui gli stati non possono dare risposte. Per fare questo c'è bisogno del vostro aiuto. Allora, il conto corrente postale della Fondazione AFSI Onlus è, lo ripeto, 522 474, con poco più di 312 euro, pagate un anno di istruzione a dei bambini in campi profughi o in situazioni nelle quali nessuno è in grado di mandarli a scuola. Pensiamoci tutti. Grazie a Giampaolo Silvestri che ha accettato di stare con noi in queste ultime ore prima di Pasqua. Però noi di Natale però ci risentiamo, perché su questa storia di come lo Stato non capisce che bisogna incentivare la gente a darvi una mano e a fare i bilanci, questa io credo che sia una delle più serie riflessioni pubbliche che un paese civile dovrebbe fare. Ho tantissime idee. Grazie su questo e buon Natale a tutti.